Sono gli anni 60. Gli anni 60. Che ti volevo dire? Come sfuggi la domanda? Tu andavi a comprare pure dei capi a Londra, li portavi qua o no? Sì. Capi d'abbigliamento? Sì, Londra, Parigi, andava dappertutto. Quindi si trovavano cose in esclusiva, insomma, alcune cose. Sì. Ma avevo anche delle aziende, dei marchi importanti francesi, ma Biba, se tu hai su internet, c'è scritto Biba, la Biba di Londra, è stata l'azienda più famosa degli anni 60. E quindi ma andava a comprare pure non solo a Marché d'Opus, a Parigi, ma andava a comprare anche a Via Sagno, non so se esiste ancora, ma a Via Sagno, vicino a chiesa, a Piazza San Giovanni, c'era un mercato di merce americana. Via Sagno, si andava a comprare le camicie, i primi jeans, anche lì andava a comprare delle cose particolari da vendere pure in negozio. Era anche un'ottima clientela. Giancarlo, sai che si dice? Sai che si dice? Sai che si dice? Che al Patriatica sei stato uno dei primi a indossare i jeans.